Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La definizione comune di ossessione, quella che si trova sui vocabolari, è grosso modo questa: pensiero che ritorna continuamente e in modo tormentoso. L'ossessione nasce soprattutto quando si aspira a qualcosa che non si riesce a ottenere, qualcosa che nasce con i contorni e il profilo di un sogno, ma che piano piano diventa un incubo per via della sua inafferrabilità. Oggi a Destini Incrociati vi raccontiamo proprio la storia di un'ossessione che, per riuscire ad essere quietata, seguirà percorsi tortuosi disegnati dal destino. La nostra storia di oggi ha una scenografia ben precisa. All England Club per tutti, Wimbledon, Londra. Il più prestigioso e ricco di tradizione fra i tennis club del mondo, che ospita il più ambito e blasonato torneo di tennis. I Championship, uno dei quattro tornei del Grande Slam. C'era una volta vicino a Londra un prestigioso club di cricket. Fondato nel 1868, si chiamava All England Cricket Club. Poi, visto il successo del nuovo sport di moda, del tennis, si decide di affiancare ai campi di cricket quelli di tennis. Detto fatto, una rivista sportiva nel 1877 decide di mettere in palio due coppe per organizzare un torneo di tennis sui campi dell'All England Club. Il primo vincitore della manifestazione è Spencer Gore. Data la natura innovativa del gioco del tennis, che all'epoca non ha ancora ottenuto grandi sviluppi né tecnologici né tattici, Gore vince applicando un asfissiante gioco di rete che impedisce ai suoi avversari di trovare spazi per attaccarlo. Insieme ai Championship nasce anche il serve and volley e l'inizio del lunghissimo albo d'oro del torneo di Wimbledon. Un torneo lungo più di 130 anni. Limitiamoci a scorrere l'albo d'oro della storia recente di Wimbledon. Troveremo diversi straordinari atleti che hanno iscritto il loro nome sull'ambitissimo trofeo londinese. In particolare spiccano i successi dell'americano Pete Sampras e di re Roger Federer. 7 successi il primo negli anni 90, 7 il secondo tra il 2003 e il 2012. Ai più attenti conoscitori del tennis però non sfuggirà anche una clamorosa assenza. Tra i vincitori del torneo di Wimbledon manca uno dei più grandi campioni della storia di questo sport. Si tratta del grande Ivan Lendl. Ivan Lendl. Ci sono tante tipologie di tennisti che possono essere sostanzialmente raggruppate in due gruppi. I talenti naturali, quelli a cui tutto viene facile a partire da una coordinazione impeccabile e da un'invidiabile leggerezza nei movimenti, e quelli costruiti sul campo e in palestra, quelli che il sudore e la fatica ha spinto a superare limiti tecnici e fisici altrimenti decisivi. Ivan Lendl è forse il prototipo di questa seconda categoria. Un robot, un cyborg che ha costruito i suoi successi su una determinazione incrollabile e su una freddezza glaciale e talvolta indisponente. Ho sempre ritenuto fondamentale l'allenamento, la cura dei particolari, la programmazione. Sono quegli elementi che ti danno un certo tipo di forma mentale, assolutamente indispensabile, perché il tennis è uno sport in cui la testa conta più di tutto il resto. Ivan Lendl è nato a Ostrava, nella Cecoslovacchia comunista, nel 1960. I suoi genitori sono tennisti. La madre è tra le più forti giocatrici del paese. Inevitabile la sua propensione per il tennis, sport per il quale dimostra una grande propensione e nel quale viene seguito subito da uno staff di prim'ordine che lavora sui suoi fondamentali, come degli scienziati farebbero in un laboratorio. Il giovanotto venuto dall'est, smilzo, magro, dal volto spigoloso, entra giovanissimo nel tennis professionistico, ma in un momento in cui c'è un affollamento di campioni che fa letteralmente paura. Connors, McEnroe, Borg, solo per citare i primi tre nomi. Mica facile inserirsi lì in mezzo, ma lui lavora, suda, tira, smussa, sistema i suoi fondamentali ed emerge fino alla definitiva consacrazione. Ivan Jovan non è mai stato un atleta in grado di scaldare i cuori dei tifosi, di accendere gli animi, di creare empatia. Eppure sono stati molti i fan che hanno supportato negli anni questo androide con la racchetta. Se chiedeste a un fan qual è stato il momento più alto e bello della sua carriera, questo vi risponderebbe con pochi dubbi. Parigi, Roland Garros, 1984. Finale. Ivan Lendl contro John McEnroe. Inizia la leggenda. Ivan Lendl, l'antipatico da una parte, e John McEnroe, il moccioso super brat dall'altra. Lo statunitense è più bravo del ceco in tutte le parti del campo. Ricama, disegna traiettorie impossibili, diverte il pubblico. Ivan gioca senza fronzoli, corre e picchia. Ogni tanto così si strappa le sopracciglia. Non guarda mai il pubblico, non sorride, non tradisce emozioni. Per i primi 2 set e mezzo è una vera e propria lezione di tennis. John McEnroe fa serve and volley deluxe formato terra rossa. 6-3, 6-2, 3-1. Quello che colpisce però è che Lendl non si scompone, mai. Subisce, corre, picchia, lascia il palcoscenico al suo avversario. Poi però succede qualcosa. Successe che capii che il terzo set sarebbe stato decisivo, perché ero più giovane, atleticamente più solido. Successe che lo vedevo un po' più appannato e con la concentrazione riuscì a spuntarla. Avevo ragione. Progressivamente John si spense sul piano fisico. A un certo punto appare chiara una differenza. Mentre McEnroe disegna geometrie e traiettorie surreali con il suo tennis spumeggiante, a Lendl interessano solo un certo tipo di linee, quelle bianche, tracciate sul campo. Negli ultimi 3 set colpisce 11 righe. Super Mac va in tilt, perde le staffe davanti a quel robot glaciale. Dopo 3 finali degli Slam perse, Lendl vince il suo primo titolo a Parigi al Roland Garros. È l'inizio di una straordinaria serie di vittorie. 8 tornei dello Slam, per 4 anni numero 1 a fine stagione, 8 finali degli US Open consecutive. Una marcia straordinaria, ma con una sola grande macchia. I momenti più bui della carriera di Lendl hanno tutti un denominatore comune: Londra, Wimbledon, l'erba del campo centrale dell'All England Club. Per molti atleti, un sogno. Per Ivan Lendl, ben presto, un incubo. Per misurare fino in fondo la natura e la profondità di una vera e propria ossessione come quella di Lendl per Wimbledon, partiamo da una premessa tecnica. Lendl, negli anni 80, è una sorta di precursore del tennis moderno. Inchiodato a fondo, perfetto in difesa, grazie a capacità di recupero straordinarie e una struttura fisica indistruttibile, grande picchiatore e dotato di un colpo in grado di girare lo scambio da difensivo in offensivo. Il diritto in corsa, diventato proverbiale. Questo tipo di gioco oggi potrebbe pagare anche sull'erba, negli anni 80 no. Oggi infatti i campi di Wimbledon sono più lenti e spelacchiati, tanto che il grande Gianni Clerici ha coniato la definizione di erba battuta. Sono campi che premiano anche giocatori di fondo puri, come Hewitt o Rafa Nadal. Negli anni 80 invece l'erba è ancora veloce, scivolosa. La pallina rimbalza bassissima, schizza via, bisogna giocare di tocco, con le gambe flesse e cercare la rete. Difficile per Ivan adattare il suo gioco alla superficie. Così i suoi primi impatti con il centrale di Wimbledon sono veramente traumatici. Nel 1983, Ivan arriva in semifinale, affronta McEnroe e perde 3-7-0. 1984, di nuovo in semifinale, perde con Jimmy Connors 3-7-1. 1985, a sorpresa, va fuori agli ottavi con Henri Lecomte. A quel punto Wimbledon diventò il mio obiettivo preciso, per il quale svolgevo una preparazione specifica. Cominciai ad allenarmi a rete, sulla volée, a lavorare sull'agilità. Il risultato è che nel 1986 si vede Lendl giocare a Wimbledon in modo più offensivo. Fa specie però vedere quel ragazzone alto e un po' legnoso tentare di muoversi sotto rete, provare movimenti per lui innaturali e complessi. Si china, fatica tantissimo per calarsi in uno schema di gioco a lui completamente estraneo. Il risultato è veramente grezzo e antiestetico, ma complice anche un tabellone favorevole, l'illusione regge e Ivan entra in finale. In finale però trova un giovane campione in ascesa, specialista dell'erba e del serve and volley, Boris Becker. Becker era un atleta straordinario, un giocatore meraviglioso, a rete eccezionale. Eh sì, Boris Becker è uno straordinario colpitore di volo. A dispetto dell'età giovanissima, i suoi schemi di gioco sono decisamente collaudati, a differenza di quelli di Lendl. La finale è uno spettacolo impietoso. 3-7-0. Wimbledon incorona il suo nuovo re e respinge ancora Ivan, che l'anno dopo però ci riprova e alza la posta. Lendl diminuisce la stagione sul rosso, imposta tutto l'anno su quell'appuntamento, gioca ancora più offensivo, infila ancora un tabellone favorevole, arriva ancora in finale. Ma gli capita un altro erbivoro, un giocatore di volo puro, l'australiano Pat Cash. Il risultato è lo stesso, 3-7-0 e l'illusione che si squarcia ancora. Per Ivan Lendl seguiranno tre dolorose semifinali consecutive, tutte perse. Arriverà addirittura a rinunciare al Roland Garros, il suo torneo preferito, pur di prepararsi al meglio per Wimbledon. Sarà tutto inutile. L'androide di Ostrava si ritira nei primi anni 90 e il trofeo più prestigioso del tennis gli è sfuggito. Sì, la cosa mi diede fastidio molto per ancora qualche anno dopo il ritiro. Poi ci ho fatto l'abitudine e mi è passata. E ci sono cose più importanti nella vita. Beh sì, sicuramente ci sono. E a queste si dedica Ivan nella sua vita dopo il tennis. La sua bella famiglia, il golf. Lendl è ormai cittadino americano e si gode la sua agiata esistenza lontano dai riflettori e dal clamore. Però il destino propone sempre trame inaspettate. Così capita che Ivan si infortuni alla schiena in un incidente domestico fino al punto da non poter più giocare a golf e a malapena riuscire a camminare. Ma viene rimesso in sesto, contro ogni previsione, da un luminare dell'ortopedia e accetta di giocare un match ad esibizione per beneficenza contro uno dei suoi storici rivali, Mats Wilander. Ad assistere alla partita quel giorno c'è anche un giovane tennista britannico che, mentre guarda Lendl in campo, comincia ad architettare un folle piano: ingaggiare Ivan come coach per provare a vincere Wimbledon. Quel giovane tennista è Andy Murray. Andy Murray. Tante cose dividono Murray e Lendl, tante quante li accomunano. Murray, a differenza di Lendl, è scozzese, di buona famiglia, dotato di un grande talento naturale, di una splendida sensibilità di tocco. Come il primo Lendl, quello giovanissimo, ha fama di essere un perdente, di essere quello che quando arriva al momento decisivo le prende di santa ragione dal terzetto di marziani Roger Federer, Rafa Nadal e Andrej Djokovic. Come Lendl, Murray ha genitori tennisti, in particolare la madre, che lo segue in ogni mossa. E come Lendl, Murray vive Wimbledon come un'ossessione. I have a dream, a song to sing, to help me cope. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo raccontando la vicenda di un grande tennista, Ivan Lendl, e della sua ossessione per il torneo di Wimbledon, unico a loro che manca al suo grande palmarès. Un trofeo che il tennista cecoslovacco naturalizzato americano tenterà di vincere da allenatore del giovane scozzese Andy Murray. Il pubblico britannico mi ha sempre sostenuto alla grande, però mi ha visto da principio come un predestinato, come se, essendo britannico, fosse scritto che io avrei dovuto vincere Wimbledon. Il predestinato Murray nasce nel 1987 e sotto un certo aspetto predestinato lo è davvero. Infatti nel 1996 scampa per miracolo alla tragedia della scuola di Dunblane. Un folle fa irruzione nella scuola elementare che anche Andy e suo fratello frequentano e spara all'impazzata uccidendo 16 bambini e un insegnante. Andy e il fratello si salvano barricandosi nell'ufficio del preside. Predestinato e fortunato, Andy viene indirizzato al tennis dalla madre, che di professione fa l'istruttrice di tennis ed è ex giocatrice. Cresce sotto le direttive della mamma, vince tutto a livello giovanile. Poi a una certa età si stufa e molla tutto, salvo poi tornare sui suoi passi e diventare professionista. Roger Federer, Rafa Nadal, Nole Djokovic sono i tre grandi problemi di Andy, che nel circuito pro mette in luce subito il suo talento, ma si trova la strada sbarrata da questi tre. Prima finale Slam 2009 US Open. La perde contro Roger Federer. Da lì una galleria di piccoli successi e grandi delusioni a un passo dal traguardo, grandi almeno come il suo talento, che meriterebbe sicuramente qualcosa di più. Le mie prime finali sono state giocate sicuramente sottotono, ma devo dire che ho incontrato anche avversari in stato di grazia. Certo, sul piano psicologico qualcosa in me ancora non funzionava. Non ero pronto. È a questo punto che arriva l'intuizione di Andy Murray. Rivolgersi a Ivan Lendl, alla sua meticolosità, al suo scrupolo, ma soprattutto alla sua mentalità vincente per cercare di acquisire la forza interiore per compiere il salto di qualità necessario. I'm wearing my heart like a crown. Pretend that you're... Anno 2012. Ivan Lendl accetta l'incarico di allenatore di Andy Murray. Decide di lavorare soprattutto sulla testa del ragazzo, sulle sue sicurezze, sulle sue certezze. Ivan ha fatto un grandissimo lavoro su di me, che all'inizio non è stato per niente facile, perché mi ha portato a mettere in discussione molte cose del mio approccio al tennis. In effetti, per tutto il 2012 i risultati per Murray stentano ad arrivare. Il tennista scozzese raccoglie qualche briciola, qualche successo in tornei minori, ma nella prima parte dell'anno, a parte qualche buona prestazione qua e là, qualche match stellare contro il rivale amico Djokovic, sembra addirittura che Andy stia facendo un passo indietro. Poi arriva l'appuntamento con Wimbledon. Andy gioca un grandissimo torneo, con una sicurezza e una forza interiore straordinaria. Il metodo Lendl sembra dare i suoi frutti, e questi frutti maturano proprio nel contesto più ambito da entrambi, il prestigioso centrale di Wimbledon. In semifinale, la terza semifinale che Murray gioca, lo scozzese elimina dopo un'intensa battaglia il francese Tsonga. È il primo britannico a raggiungere la finale di Wimbledon dal 1938, ma in finale c'è un certo Roger Federer. Non ho mai visto nessun tennista essere sottoposto alla pressione che riceve Andy a Wimbledon, e questo è stato uno dei motivi per cui accettai di allenarlo. Io ero uno dei pochi che sapeva come si sentiva dopo aver perso le prime tre finali dei Majors, perché era successo anche a me. Sapevo cosa provava, e nel mio piccolo spero di avergli dato una mano. La finale di Wimbledon, però, in cui sia Lendl sia Murray sperano di poter coronare il proprio sogno di vincere i championship, non va come i due sperano. Come si suol dire, Roger Federer asfalta, letteralmente, il tennista scozzese ed entra nella storia. Vince il suo settimo Wimbledon e torna numero uno al mondo a 31 anni. La storia sembra ripetersi amaramente per Murray e per Lendl, ma il 2012 è un anno particolare. Wimbledon si gioca due volte. Per me il torneo olimpico del 2012 equivale a tutti gli effetti a un torneo dello stile, ma ad un Wimbledon bis. Per questo motivo insieme ad Andy abbiamo iniziato a lavorarci duramente, perché sapevamo che poteva essere il contesto giusto per toglierci delle grandi soddisfazioni. Infatti nel prestigioso palazzetto inglese va di scena anche il torneo olimpico. E che occasione per Murray. Rigiocare di fatto il suo torneo ossessione, farlo per una medaglia d'oro olimpica e davanti al suo pubblico. Lo riviveremo insieme tra poco, a Destini Incrociati. And the outside temperature rises, and the meaning is oh so clear. 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Destini incrociati. Ivan Lendl, uno dei più grandi tennisti della storia, e Andy Murray, uno dei Fab Four del tennis odierno. Il primo diventa coach del secondo per aiutarlo a inseguire un sogno sempre sfuggito a entrambi, il successo sull'erba di Wimbledon. Il 2012 è l'anno olimpico e le Olimpiadi vanno in scena a Londra. Dal momento in cui il tennis dalle Olimpiadi di Seul del 1988 è tornato ad essere a pieno titolo uno sport olimpico, il torneo a cinque cerchi ha acquisito sempre maggiore importanza nel calendario del tennis internazionale. A Londra quindi si sceglie come cornice per ospitare il tennis proprio l'All England Club, Wimbledon. Il che significa che Murray e Lendl hanno una seconda chance per vincere nel più prestigioso dei campi da tennis del mondo. Le difficoltà per Andy Murray non saranno poche. Innanzitutto i rivali agguerritissimi e determinati. In particolare proprio quel Roger Federer che nella finale di luglio del Wimbledon vero l'ha stritolato e che si presenta da numero uno al mondo, favorito e concentratissimo, dato che nel suo sterminato palmarès manca proprio l'oro olimpico. Soprattutto però per Murray, che ha sempre avuto nella testa il problema più grosso, la difficoltà più difficile da gestire, il pubblico di casa, giocare per la Gran Bretagna. Non sarà semplice scendere in campo con questo peso addosso. Il lavoro più grande che io e Andy abbiamo svolto insieme per preparare il torneo olimpico ha riguardato l'aspetto mentale. Riuscire ad isolarsi dal contesto, a trasformare le pressioni in energia positiva. Andy a Wimbledon non c'era mai riuscito. Nel momento in cui ce l'ha fatta, il suo tennis è diventato esplosivo. Carico e concentrato come mai prima, è così che Murray si presenta al torneo olimpico. Lendl, che su quel campo non è mai riuscito a vincere, compie però un'altra straordinaria impresa: dare all'atleta scozzese la serenità e la compostezza necessarie per potersi giocare le sue carte fino in fondo. Con grande solidità e forza, Andy Murray raggiunge le semifinali del torneo olimpico, dove lo aspetta un avversario problematico, il serbo Novak Djokovic. Novak è un amico. Siamo dello stesso anno, siamo cresciuti insieme nei tornei giovanili e siamo diventati amici. Ci conosciamo molto bene e abbiamo grande stima l'uno dell'altro. È sempre un avversario durissimo perché sono davvero pochi gli atleti fisicamente solidi come Nole. La sfida tra Murray e Djokovic è come al solito caratterizzata da grande equilibrio. Ciò nonostante, il tennista britannico dà un'impressione di solidità che raramente si era vista prima. Sembra sempre in controllo assoluto delle situazioni di gara. Qualche rapido cenno d'intesa con Lendl in tribuna gli dà sicurezza nei passaggi chiave. Alla fine, di misura, Murray sconfigge il serbo e approda in finale. Decisiva per l'esito del torneo olimpico è anche l'altra semifinale, quella tra Roger Federer e l'argentino Juan Martina del Potro. Lo svizzero si aggiudica il match, ma deve stare in campo 4 ore e 25 minuti, record assoluto di durata per un match al meglio dei tre set. An Olympian occasion comes to its end after 4.5 hours and Roger Federer keeps his gold medal hopes alive. Federer vince 19 a 17 al terzo, ma esce dal campo stremato. La finale è solo due giorni dopo e il re del tennis mondiale, 31enne, difficilmente potrà recuperare in tempo per l'appuntamento con loro. Per Andy Murray e il suo coach Ivan Lendl è la grande occasione. 5 agosto 2012. Va in scena a Wimbledon la finale del torneo olimpico di singolare maschile di tennis. Si affrontano il numero uno del mondo, Roger Federer, e l'idolo di casa, Andy Murray. Roger ha vinto 7 volte su questo campo, Andy Murray mai, e nemmeno il suo coach Ivan Lendl. Per loro, però, è arrivato finalmente il giorno del riscatto. L'inizio sembra far rivivere negli occhi dei tifosi britannici, dello stesso Murray e di Lendl in tribuna, l'incubo dei precedenti confronti su erba tra i due atleti. Roger ha subito una palla break nel terzo game, break che potrebbe indirizzare il match. Andy però cancella la palla break e prende il controllo del match. Roger è spento, ancora stremato per la semifinale maratona con Del Potro. Murray lo spazza via in 3 set. Thank you. 6-2, 6-1, 6-4. Una vittoria nettissima che in un colpo solo scaccia gli incubi dalla testa di Murray, che vince per la prima volta sui prati di Wimbledon e risarcisce in parte Lendl, che aveva inseguito per tutta la carriera il successo nel prestigioso club londinese. I due campioni si abbracciano. Murray ringrazia pubblicamente il suo coach, i cui meriti sono indiscutibili, soprattutto per aver reso solida la fragile componente psicologica dello scozzese. Un mese dopo, a riprova di ciò, Andy vincerà il suo primo slam a New York, gli US Open, sempre nel segno del cyborg di Ostrava, il grande Ivan Lendl. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.